è stata rappresentata non solo da Fellini, ma anche abbiamo ammirato il film di Valerio Zurlini, La prima notte di quiete, quindi abbiamo voluto guardare questa linea anche un po' poetica, quindi di quando gli ombrelloni vengono chiusi, le spiagge vengono liberate, che cosa succede? E quindi la struttura è questa, l'arrivo della decisione, quindi c'è chi resta, c'è chi parte, chi inizia a lavorare, chi inizia l'università. Ovviamente questo non ha potuto che coinvolgere molti discorsi che affliggono anche i giovani di oggi, quindi l'insicurezza, il precariato e le pressioni da parte delle famiglie, insomma cose che abbiamo ritenuto essere anche abbastanza universali per quell'età. Quindi sì, è un film di come cambiano le cose alla fine della nostra adolescenza. Ecco. Che tipo di distribuzione avete scelto? Abbiamo avuto la fortuna che dopo aver girato qualche scena abbiamo contattato una casa di produzione che è la Toed Film di Claudio Bucci tramite un altro produttore, Roberto Bessi, che hanno una visione. Noi gli siamo estremamente grati e rispettiamo il loro lavoro in quanto hanno deciso di sostenere il nostro film e quindi di produrlo e di distribuirlo. E quindi adesso appunto abbiamo una distribuzione nelle sale che è iniziata in una cornice bellissima che è il cinema Fulgor di Rimini. Nelle prossime settimane c'è la possibilità di partecipare a qualche festival in Italia e all'estero, e poi ovviamente nelle sale che ci ospiteranno ci sarà una distribuzione in sala e poi potenzialmente sulle piattaforme. È ancora in fase di sviluppo tutto questo. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web? La pagina doidfilmsrl.com/film, poi c'è la pagina di PRF che è il collettivo con cui abbiamo prodotto questo film, quindi productions.prf. Il film Dopo le nuvole al cinema da lunedì 31 gennaio 2022, un saluto e un ringraziamento alla regista Matteo Paba. A presto. Con Massimiliano Cafaro dell'associazione Pantera 90 Archivio per presentare l'iniziativa dal titolo A cominciare dalla Pantera a Roma, Cinema Troisi, venerdì 4 febbraio 2022. Ben trovato! Ciao Federico, buongiorno! Raccontiamo un po' di cosa si tratta. Partiamo però dall'associazione. Ci racconti di questa struttura? L'associazione nasce circa un anno fa, a valle di un'iniziativa che abbiamo avuto noi, qualcuno insomma degli ex della Pantera, di rivederci dopo 30 anni, quindi nel 2020, dalla stagione dell'occupazione della Pantera, e abbiamo fatto insomma una grande riunione partita con una chat che all'inizio ci aveva in pochi giorni in realtà più di 250 collegati in questa chat, sia di Roma sia delle altre città che erano state interessate dalle occupazioni dell'Università della Pantera. Abbiamo fatto una grande riunione il 18-19 gennaio con una prima conferenza alla Sapienza per fare un po' appunto della situazione, nel senso di ricordare quella stagione, e ci abbiamo avuto un po' l'intuizione a valle di questo convegno e di questa riunione di fondare un'associazione con uno scopo principale, cioè di riuscire a documentare quello che è stata quella stagione di movimento che ci è sembrata, rispetto insomma alle altre stagioni più note del 68 e del 77, ci era sembrata poco capita, poco documentata, poco studiata. Quindi abbiamo detto: formiamo un'associazione dedicata alla costruzione di un archivio audiovisivo, soprattutto visto che l'archivio cartaceo dei verbali, delle assemblee, delle riunioni degli anni 90 c'era già ed era depositato all'IRCIFAR. Quindi abbiamo cercato di creare un'associazione che lavorasse solo su questo fondamentalmente, poi ovviamente con altre iniziative sia di promozione sia un po' più ampie, però di documentare tutta quella stagione, la stagione un po' dei movimenti politici e giovanili degli anni 90. Ne stanno arrivando di contributi? Sì, stanno arrivando i contributi, un primo fondo molto importante. Noi ci siamo, dico per inciso, collegati con l'AMO, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, per far sì che tutto il materiale che arrivasse a noi associazione fosse riversato in un archivio nazionale disponibile da oggi e per sempre per chi volesse studiarlo, per chi volesse usarlo anche per altre documentazioni, per documentari, per film, per ricerche. Quindi sì, è arrivato un primo fondo importante di Roberto De Angelis, che aveva firmato all'epoca, c'è un girato di circa 60 ore. Abbiamo fatto un primo deposito, abbiamo ricevuto una donazione, insomma, da Roberto De Angelis di 20-21 ore. E adesso piano piano arriveranno altri fondi, sia suoi che sia di altri autori. Siamo in contatto con Firenze, ci stanno mandando il materiale della documentazione audiovisiva di Firenze della stagione, appunto, del 1990, e così stiamo andando avanti cercando di promuovere. Poi abbiamo un sito che dovrebbe essere, diciamo, un punto di promozione, abbiamo un gruppo Facebook, abbiamo Instagram, quindi stiamo cercando adesso, nonostante, diciamo, la pandemia e la difficoltà di riunirsi e di lavorare operativamente in maniera più efficace, però insomma stiamo tentando di riattivare in senso molto più ampio questi strumenti per pubblicizzare che cosa? Per pubblicizzare la proposta a tutti gli autori, che poi eravamo tantissimi, perché la specificità del movimento degli anni 90 è che tutti, più di prima, avevano una telecamera in mano, quindi molto materiale c'è, cioè spazio per tutta l'Italia. Stiamo promuovendo questa ricerca di documentazione, la stiamo cominciando a ricevere, la filtriamo e la depositiamo all'AMOD per renderla, diciamo, un po' disponibile a tutti. Ecco, questo qua è l'aspetto principale dell'attività dell'associazione. Di questo materiale video ne era stato realizzato un premontaggio di circa mezz'ora, che era stato presentato al Festival Anarchive, proprio dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico a Roma. Di questo materiale ne è stato poi realizzato un formato ancora più ristretto, a un quarto d'ora di presentazione, che verrà proiettato venerdì 4 al Cinema Troisi. Sì, abbiamo pensato di usare questo materiale, renderlo un po' più agile per dare una prima immagine di quello che è il materiale d'archivio di questo primo fondo Roberto De Angelis. Per una presentazione più snella abbiamo fatto un montaggio di un quarto d'ora, che in realtà si inserisce anche lui come materiale un po' di promozione, ecco, diciamo, dell'attività dell'archivio. Vedremo venerdì al Troisi questo quarto d'ora, che è un po' preso da spezzoni del primo fondo di 20 ore da Roberto De Angelis, dalle assemblee alla Sapienza fino all'occupazione dei binari della stazione, quindi ci sta un po' tutto dei momenti principali. Ovviamente il materiale è molto più ricco, questo è solo un estratto simbolico, ecco, diciamo così. A seguire c'è l'incontro con Claudia Tombini, che è l'architetto che ha realizzato poi la ristrutturazione del Cinema Troisi, ma viene anche lei dal Movimento Studentesco della Pantera, architettura per la precisione, e ci sarà questo dialogo con me e con te, che hai letto il libro, proprio sul mio libro autobiografico Quando il fumo si dirada. È un diario di più di 30 anni di storie di movimento, che ha un po' il suo momento di innesco, anche se c'erano già stati episodi prima, però proprio dalla Pantera, che da lì in poi, soprattutto per Roma, per il movimento antagonista, ha rappresentato una fucina di energie per tutto quello che si è mosso poi nei decenni a seguire. Io il libro l'ho letto e mi sembra molto interessante, soprattutto appunto perché copre un arco dei 30 anni, dagli anni 80 e i movimenti e le esperienze che tu hai fatto, cioè negli anni 80, e il passaggio della Pantera che hai incrociato nel libro secondo noi è abbastanza fondamentale, perché è riuscito poi, fondamentalmente questo è quello che pensiamo, a coinvolgere una moltitudine di persone che o non avevano mai fatto politica, oppure che si sono riattivati con il movimento della Pantera, che è stato un movimento largo e che ha intercettato un sacco di esperienze, che si sono, diciamo, rimessi a sistema sul territorio, sulla città, hanno in qualche modo riattivato alcune attività, ma soprattutto proprio come numero di persone dei centri sociali, e hanno contribuito a una produzione anche culturale di quegli anni che ha dato i suoi effetti anche nei decenni successivi. Abbiamo fatto un'analisi che tutto quel decennio degli anni 90 poi in realtà c'ha uno stop nel 2001 dopo il G8 di Genova, però alcune cose sono continuate, diciamo, un po' sotto traccia, e